Sono rimasto sorpreso nel notare come il libro sapienziale dell'Ecclesiaste abbia riassunto l'esistenza dell'essere umano spartendola tra i due più grandi sentimenti che lo animano, cioè l'odio e l'amore, ai quali in seguito ne ha aggiunto solo un terzo. Certo, a me la scelta di aggiungere un solo altro sentimento sarebbe sembrata ardua, perché cosa avrei potuto aggiungere all'odio e all'amore senza fare torto ad un altro sentimento umano? Ebbene, la citazione di questo terzo sentimento ha suscitato in me un certo interesse, spronandomi ad avviare una ricerca. Intanto leggiamo ciò che troviamo scritto nel libro dell'Ecclesiaste. I viventi, infatti, sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Per loro non c'è, è più alcuna ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata. Anche il loro amore, il loro odio e la loro invidia sono ormai periti, ed essi non avranno mai più alcuna parte in tutto ciò che si fa sotto il sole. Ecclesiaste 9.56. Dunque, l'autore di questo libro, oltre l'amore e l'odio, ha ritenuto opportuno citare anche l'invidia tra i sentimenti che non può più provare chi non fa parte dei viventi. Perché mettere in evidenza proprio l'invidia e non, ad esempio, la maldicenza, l'ira o qualsiasi altro sentimento negativo? Difficile dirlo, ma non si può ignorare che l'invidia sia uno dei sentimenti negativi così preso poco in esame, come non è possibile nascondere che sia uno dei sentimenti più comuni nella razza umana. Per questo è opportuno considerare cosa sia l'invidia, vederne gli effetti nefasti e come non esserne animati, o, nel caso se ne sia in preda, come liberarsi da questo sentimento, che ha procurato, procura e procurerà danni irreparabili. Il vocabolario definisce l'invidia quel sentimento di rancore e di astio per la fortuna, la felicità e le qualità altrui. Infatti il vocabolo italiano invidia deriva da una parola latina avente il significato di guardare contro, il che è tutto dire. Prova invidia colui che osserva il prossimo con uno spirito di inimicizia o di animosità, senza ricercarne il bene o non provando soddisfazione per la propria situazione. Da questo errato rapporto nasce poi l'invidia, e meno, secondo il mio parere, meno non è di certo un tale sentimento a creare una mancanza di relazione. Se, come ha detto Agostino, il male non è altro che il bene trasformatosi in male, l'invidia nasce perché manca quel rapporto di amore, di stima e di rispetto. Proprio perché il vero amore è raro, l'invidia sembra essere l'aria che si respira. Nella Bibbia questo atteggiamento di opposizione o peccato viene spesso citato e condannato severamente, essendo visto come la causa di tante sciagure, tragedie e inimicizie. Si coglie l'invidia già nei figli di Adamo ed Eva, quando Caino uccide Abele solo perché suo fratello era accettato dall'Eterno e lui no. La Bibbia dice pure che i fratelli di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, lo vendettero perché gli portavano invidia, dato che Giacobbe aveva una certa preferenza nei suoi riguardi. Genesi 37.1.1. Forse il caso più eclatante e più fatale dell'invidia è stato quello dei capi sacerdoti quando consegnarono Gesù nelle mani di Pilato, Marco 15.10. Mettendo in evidenza quanto male possano produrre le persone invidiose. Non si può certamente nascondere il male che possano produrre l'odio, l'ira e altri simili peccati violenti, ma sta di fatto che spesso questi atteggiamenti aberranti provengono da un sentimento sulle prime non così facilmente identificabile, un impulso che è possibile nascondere e covare come una malattia, ma che poi si rivela nelle sue espressioni più nefande. Infatti, se la società è corrotta, se l'altruismo non è la normalità su cui si basa una relazione, è perché il rapporto umano è fondato sull'invidia. Così sta scritto nel libro sapienziale dell'Ecclesiaste o Coelet. Ho pure visto che ogni fatica e ogni successo nel lavoro risultano in invidia dell'uno contro l'altro. Ec 4.4. Ho constatato di persona nei miei 37 anni di lavoro e posso testimoniare come questo sia vero. Mentre io ero contento del lavoro altrui, mentre mi rallegravo dei loro successi, altri si relazionavano negativamente con la capacità del prossimo, mossi solo dall'invidia. Spesso l'invidioso è colui che, mosso da un complesso di inferiorità, vuole distruggere tutto ciò che gli è superiore. Come se un mediocre giocatore di calcio, per invidia, volesse eliminare chi gioca meglio di lui all'interno della squadra, per poi volersi attribuire solo a lui la vittoria. L'esistenza umana è un partita a squadra. È assurdo pretendere di togliere chi è più bravo. Se così si facesse, non sarebbe possibile che la società giunga a successi strepitosi come per esempio nei diversi campi scientifici. Perciò è proprio insensato essere invidiosi. Ma, come è stato per Gesù, l'invidioso non guarda se colui che considera suo antagonista è altruista, se ha fatto del bene, l'importante è che non ci sia più. È assurdo perché tanto chi è incapace, chi è inferiore, rimane tale anche senza la presenza dei migliori. Anche nelle narrazioni riguardanti gli albori della fede cristiana troviamo citata l'invidia, della quale i giudei erano pieni perché l'Evangelo faceva progresso. Atti 5.17, 23.45, 17.5. Cosa del resto valida anche oggi. E è vero che il lupo ha cambiato il pelo, che si è travestito da pecora, ma solo da poco tempo, perché quando ero giovane i religiosi cattolici romani, ripieni di invidia, si opponevano alla predicazione del Vangelo, come del resto accade in certi paesi dove preti e cardinali esercitano una certa egemonia in molti settori. La predicazione del Vangelo ha sempre prodotto invidia nei cuori di chi ha scopi personali e intenzioni malvagie, ma il cristiano che serve Cristo e vuole onorare solo lui, dirà con l'Apostolo Paolo, che importa? Comunque sia, o per pretesto o sinceramente Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per lì, avvenire. Filippesi 1.18. Perché coloro che dicono di essere cristiani non hanno lo stesso atteggiamento dell'Apostolo Paolo? Perché farsi guerra? Perché vi è dell'invidia, come venera in Paolo prima della sua conversione? Il quale testimoniò con molta onestà a Tito. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Tito 3.3. Cosa vuol dire, allora, se i religiosi di oggi sono invidiosi? O non si sono convertiti a Cristo, o hanno scopi malvagi? Non conosco altre risposte. L'invidia è tanto comune che Dio più volte dice a coloro che hanno posto fede in Lui: non affliggerti a motivo dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, Salmo 37.1, oppure non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie, Proverbi 3.31. Sono sicuro che se si è sedotti dall'invidia di chi fa il male, non è tanto per l'invidia in sé, ma perché si vede che quelli che operano perversamente o violentemente, cioè mettendo da parte gli altri per farsi strada, spesso hanno successo, spesso riescono nei loro intenti e colmo dei colmi addirittura prosperano. Difficile non portare invidia a simili persone, difficile continuare ad essere retti e onesti senza nutrire nessun sentimento di rabbia, ma questo per il cristiano non è il momento di farsi le proprie ragioni, soprattutto quando una chiamata senz'altro unica. Non a caso, Salomone ha i due più grandi sentimenti dai quali l'uomo è animato, cioè l'odio e l'amore, ha aggiunto l'invidia. Senza tanto fantasticare, lo vedo nella sua fastosità, nella sua opulenza. Sorretto da una massima sapienza, tutte cose che non potevano produrre altro se non invidia. Invidia. Nei malvagi, negli avari, negli scontenti, perché avrebbero voluto possedere quello che lui possedeva, e anche in coloro che avrebbero voluto avere, come Salomone, sempre una parola giusta. In ogni circostanza, si può dire che se C è un'invidia ingiusta, VN è anche una giusta. Una santa invidia intesa come il grande desiderio di possedere una virtù per poterla usare per il bene del prossimo. Una santa invidia, priva di qualsiasi negatività. Una santa invidia, della quale era certamente animato Eliseo, quando sollecitato da Elia a richiedergli qualcosa, domandò al suo maestro di ricevere una doppia porzione del suo spirito. 2 Re 2.9. Una simile richiesta da parte di Eliseo non è per certo casuale. Molto probabilmente egli nutriva da tempo il desiderio di operare potentemente al pari di Elia, ma non ne aveva la possibilità. Il momento era giunto, Dio conosceva il suo cuore. Dio sapeva che il suo desiderio era retto, che la sua santa invidia o gelosia era senza trivialità. Perciò gli fu concesso quello che desiderava. Giacomo nella sua lettera dice che dove ci è invidia ci è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Giacomo 3.6. E aggiunge pure che chi porta invidia non riceve nulla da Dio. Giacomo 4.13. Ma Eliseo faceva solo del bene e otteneva da Dio ciò che richiedeva. Nella nostra lingua italiana il termine invidia ha sinonimi esclusivamente negativi, ma come ogni altra parola può avere significati anche positivi, quindi dovremmo considerare l'invidia anche in senso positivo. Se la parola odio ha il senso di nutrire dell'avversione verso qualcuno, ma anche avversione verso il male, se vi è l'amore giusto per Dio e quello sbagliato per il denaro, così, se l'invidia è gelosia nei confronti del bene altrui, può anche esserci una santa gelosia, invidia nel desiderare di possedere il bene altrui per usarlo per Dio. Chi non vorrebbe avere l'acume dell'Apostolo Paolo? Chi non vorrebbe avere la sincerità del re Davide? Chi non avrebbe voluto essere al posto di Mosè quando parlava con Dio? Sono sentimenti più che buoni e che difficilmente possiamo sradicare, qualsiasi termine fossimo in grado di usare per definirli. Invidia santa è quello che, a mio avviso, ci si avvicina di più. L'importante è non nutrire nessun sentimento di rancore o di astio per i beni altrui. Poi, ogni altro sentimento è sempre e comunque ben accolto se onora Dio e il suo regno. Luglio 2010. Ellero,